vecchino Balanzone, Pulcinella o Pierrot, nel teatro della vita, maschere come te, tu maschere come me. Nei salotti, nelle piazze, negli uffici, nei caffè, rituali d'apparenza, quante facce hai, quale indosserai? L'imperativo di voler sembrare un contenitore involucro, una confezione scatola, alla sensazione un pacco. Avvocato, cavaliere, Avelina o showgirl, recitando la tua vita, maschere come te o maschere come me. Tacco 15 limousine, firmamento l'unestà, aspettando l'occasione, quante facce hai e quale indosserai? L'imperativo di voler sembrare un contenitore involucro, una confezione, una scatola, alla sensazione un pacco.